Definire un matrimonio riuscito non è un compito facile perché la realtà intorno a noi è cosparsa di divorzi, separazioni, convivenze illecite, adulteri. Che ci sia qualcosa di sbagliato nel vivere la vita matrimoniale è evidente, soprattutto tenendo presente che tutti gli sposi davanti alle autorità civili o religiose si promettono fedeltà e amore fino alla fine dei loro giorni. E poiché per molte coppie questa fedeltà e amore sono ridotti a pochi anni, a volte mesi se non giorni o addirittura ore, è da chiedersi se non sia giunto il momento di prendere sul serio questa emorragia di incoerenza e cercare di comprendere, prima di formulare un giudizio negativo, dove risiede il fallimento della vita matrimoniale. La prima risposta più ovvia è che gli sposi siano venuti meno ad un patto. E su questo non ci piove, ma a mio avviso non è possibile ridurre le conclusioni del fallimento della vita matrimoniale sempre ad un elemento. Siamo tutti coscienti che per ogni effetto concorrono tanti fattori o cause, anche se solo una di queste a volte diventa determinante. Perciò esaminare le cause di un matrimonio non riuscito può aiutarci a comprendere come sia possibile avere un matrimonio riuscito. Un matrimonio riuscito è diverso da un matrimonio perfetto, perché quest'ultimo non esiste. Come non può esistere un matrimonio senza crisi, diverbi, amarezze, delusioni. Tutti, più o meno, arriviamo al matrimonio con la nostra buona dose di ideali e anche di castelli di carta nei quali regna armonia, dolcezza, tenerezza, comprensione, soddisfacimento dei nostri desideri inappagati. Questi sogni, pur potendo essere leciti, si presentano ben presto irrealizzabili e si scontrano con inaudita violenza contro la dura e inesorabile realtà quotidiana di due persone imperfette, piene di problemi e complessi. Dopo il sì davanti alle autorità, ben presto gli sposi si rendono conto di dover convivere con un altro, completamente diverso dall'ideale delle loro aspettative, sia perché il partner appartiene ad un altro sesso, il quale ne condiziona pensieri e atteggiamenti tutti diversi nei confronti della vita, sia perché nella convivenza saltano fuori, come quando si solleva un sasso immerso nel fango, tutti i difetti nascosti impossibili da vedere prima del matrimonio. Per comprendere come possa esistere un matrimonio perfetto è necessario prima prendere in esame com'è la vita matrimoniale. Senza ombra di dubbio, un matrimonio è innanzitutto una convivenza. Si tratta di esprimere un vita in comune con dei principi condizionati dalla cultura, e per questo non è possibile stabilire delle regole uguali per tutti. Nei paesi arabi la donna ha una vita pubblica quasi inesistente, in altre popolazioni la sua presenza nella comunità è determinante. In Giappone il ruolo della donna in casa è di un servilismo estremo, in Occidente si assiste al fenomeno sempre più frequente della donna che si vuole liberare da quello che lei ritiene un compito di schiavitù. In alcune popolazioni la donna è trattata come un oggetto di piacere e di servizio, in altre gli uomini dipendono dal volere della donna. Con un simile quadro così variegato di convivenza è impossibile, da un certo punto di vista, considerare la possibilità di un matrimonio riuscito, perché ovunque si guardi non vi è un rapporto di coppia ideale. Ogni cultura ha i suoi pro e contro. Io sono un occidentale e vivo la convivenza matrimoniale con la mia cultura, però spesso mi rendo conto che le altre culture hanno da insegnarmi tanto riguardo a come vivere il mio rapporto di coppia, ma la realtà sociale e culturale nella quale vivo mi impedisce di far entrare nel mio matrimonio elementi che potrebbero arricchirlo. Se io volessi vivere il mio matrimonio con una cultura giapponese, dovrei avere prima di tutto il consenso di una moglie occidentale. Dovrei cambiare gran parte della mia mobilia, dovrei condizionare i miei ospiti a sedersi per terra, poiché sono innumerevoli gli aspetti culturali e morali di un rapporto di coppia, sembra impossibile realizzare un matrimonio riuscito, dato che comunque per forza esistono delle lacune nel rapporto di coppia. Un matrimonio ideale è una convivenza vissuta su tutti i livelli, ma per molte coppie questo non è possibile. Vi sono mariti che hanno una presenza nella famiglia quasi inesistente, chi a causa del lavoro, chi per altre attività più o meno lecite. Si può parlare di un matrimonio riuscito? Vi sono coniugi che hanno sposato se stessi o il loro ideale trascurando vistosamente i bisogni morali e pratici della famiglia. Si può parlare di un matrimonio riuscito? Vi sono sposi che non sono riusciti a trovare una via comune per essere ambedue soddisfatti nella vita e nel campo sessuale. Si può parlare di un matrimonio riuscito? Com è un matrimonio riuscito? La risposta più ovvia alla domanda come si può definire un matrimonio riuscito è che prima di tutto non può e non deve per forza essere perfetto, poiché la perfezione non fa parte di questo mondo. Le cose riuscite, compreso il matrimonio, possono esistere anche, o proprio, nella imperfezione. E, come per il diamante, per essere tale non deve essere perfetto. Questo aspetto ribalta la comune concezione del matrimonio riuscito. Nella nostra mentalità distorta, vediamo il matrimonio riuscito un rapporto di armonia e di intesa su ogni aspetto del rapporto di coppia, ma se così fosse, non si potrebbe mai parlare di un matrimonio riuscito, dato che tutti siamo imperfetti. Invece, il matrimonio riuscito è possibile anche nel matrimonio più strano, scombussolato, disastroso, in un rapporto di coppia quasi inesistente e disarmonico. Com'è possibile parlare di un matrimonio riuscito in un contesto di coppia che manca di una relazione coniugale? Si vuole definire buono a tutti i costi ciò che non lo è, oppure dobbiamo rivedere il concetto di matrimonio riuscito? Prima di rispondere a queste domande, dobbiamo porcene un'altra. Abbiamo nella nostra cultura degli elementi validi o degli assoluti che ci permettono di considerare il matrimonio riuscito? Oppure, se siamo cristiani, abbiamo nella autorevole parola di Dio delle regole che ci permettono di stabilire un matrimonio riuscito? Per quanto leggiamo, dato che la parola di Dio era indirizzata ad ogni persona, appartenente ad ogni razza e cultura, troviamo che il Dio della parola ha dato dei principi, nel rapporto di coppia, quali l'amore e il rispetto, ma non propriamente delle regole. Questo spiazza chi volesse trovare nelle scritture delle precise regole di comportamento all'interno del matrimonio. Perché se Dio avesse ordinato ai mariti di portare dei crisantemi alla moglie per dimostrare il proprio affetto, mentre in Giappone un simile fiore è gradito, in Italia potrebbe diventare offensivo, soprattutto nel giorno dei morti. Così il matrimonio riuscito non è quello che rispetta i canoni sociali. Non risiede nella perfezione del comportamento dei coniugi, ma in un aspetto che è di grande benedizione e liberazione per chi ne ha preso coscienza, e cioè nell'avere un partner soddisfatto. Ciò che caratterizza la nostra umanità è l'incompletezza. Noi siamo bisognosi di tutto, di aria, del cibo, del lavoro, del riposo. Noi abbiamo bisogno di amore e di amare, abbiamo bisogno di stima e di stimare, abbiamo bisogno di vivere con altri e di stare da soli. È evidente quindi che a rendere incompleto un matrimonio è l'esistenza dei bisogni. Noi tutti ci sposiamo perché abbiamo bisogno di amare qualcuno in modo particolare e di essere amati in modo particolare da una sola persona. Perché abbiamo bisogno del contatto fisico, quale la sessualità e gli abbracci. Abbiamo bisogno di convivere con un'altra persona ogni aspetto della nostra vita. È evidente che finché sussistono insoddisfatti alcuni di questi desideri non si può parlare di un matrimonio realizzato o riuscito, perché un partner è inappagato. Però, e questi sono i contrasti della vita, benché sussistano nel matrimonio elementi che lo rendono fallito, si può avere un matrimonio riuscito. Un matrimonio ideale è quando i due sposi comunicano, parlano, condividono, ma quando un partner non ha queste necessità e vive il rapporto di coppia sereno anche se distaccato, non è forse questo per l'altro coniuge un matrimonio riuscito? Quando un marito è quasi assente nella famiglia, ma la moglie non ha problemi e non è disturbata, non è questo per lei un matrimonio realizzato? Un matrimonio riuscito non è forse quando i due sposi non hanno problemi irrisolti? Sono i problemi che rendono conflittuale la convivenza, ma quando questi non esistono, non è forse un matrimonio riuscito? Questo aspetto dovrebbe portare a considerare un matrimonio riuscito da un'altra angolatura. Piuttosto che cercare di rispettare i canoni morali e sociali della società, un coniuge dovrebbe preoccuparsi di rendere il proprio partner appagato senza problemi? Quando un coniuge è sereno, senza problematiche, non si è forse riusciti alla meta per il quale ci si è sposati? Se si è obiettivi, molti conflitti nel rapporto di coppia non sorgono perché il nostro coniuge ha dei problemi, ma perché noi abbiamo delle necessità. Necessità che potrebbero consistere nell'affetto, nel sesso, nella presenza in casa, e che il nostro partner non ne sente il bisogno. Così, proprio per queste insoddisfazioni, noi vomitiamo sul coniuge i nostri disappunti quando casomai lui vive serenamente su di un altro pianeta. Un matrimonio riuscito è allora quando si vive accanto ad un partner che non ha problemi e necessità. Forse stiamo vivendo un matrimonio che non è affatto un ideale di matrimonio, ma il nostro scopo nello sposarci non deve essere quello di adempiere agli schemi che ci siamo prefissati dalla società o di essere soddisfatti, ma di avere accanto una persona che si sente realizzata e soddisfatta. Se non lo è, non ha che da dirlo. Diversamente, per quanto ci riguarda, il suo silenzio ci autorizza a pensare che stiamo vivendo un matrimonio riuscito. Novembre 2004. Contributo vincolo santo GBU Gary Thomas. Ellero.